Giovani talenti. Giovani talenti di Sergio Nava. Se non apriamo a questi ragazzi nuove possibilità di occupazione e di vita dignitose, nuove opportunità di affermazione sociali, la partita del futuro è persa, non solo per loro ma per tutti, per l'Italia, ed è in scacco la democrazia. Apriamo con le parole del messaggio di Capodanno del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano la serie 2011 di Giovani Talenti. Con questa puntata cambia la nostra fascia oraria. A partire da questo sabato la trasmissione è anticipata alle 13.30. Segnatevelo in agenda. Ma veniamo a noi. Potrà l'Italia tornare ad essere un paese per giovani nel 2011? Potranno i nostri giovani talenti scegliere dove lavorare, se qui o all'estero? Oggi restate all'ascolto perché vi spiegheremo la nuova legge contro esodo per il ritorno degli under 40 e con la storia della settimana vi porteremo nel sud-est asiatico per parlarvi di un giovane economista che sognava di far carriera nelle organizzazioni internazionali. A Roma gli hanno risposto così. No, perché ero giovane, no perché avevo poca esperienza. Non eri raccomandato, vero? Sicuramente vengo da una famiglia normale e non ho mai avuto una raccomandazione. Matteo Marinelli, 30 anni, è un analista di microfinanza al lavoro in Cambogia. Della sua storia parleremo tra pochi minuti. Ora spazio al notiziario. La fuga dei talenti riapproda sulle pagine delle principali testate internazionali. Del profondo malessere dei giovani italiani ha parlato a Capodanno il New York Times. Pochi giorni fa l'autorevole Economist è tornato sul tema con l'articolo No Italian Jobs. 300.000 italiani dall'alta formazione hanno lasciato il paese, denuncia il settimanale. Esplode la disoccupazione giovanile in Italia, ora al 28,9%, il tasso più elevato di sempre. Crescono gli scoraggiati che hanno perso le speranze di trovare un lavoro, quasi 1,5 milioni. No all'esodo dei giovani dall'Italia, così il ministro dell'istruzione Maria Stella Gelmini, autrice della contestata riforma dell'università. La Gelmini ha elencato 5 motivi per non lasciare il paese. Si terrà il 17 gennaio a New York l'Assemblea Generale della Confederazione degli Imprenditori Italiani nel Mondo. Lo stesso giorno sarà pubblicato il bando del programma di stage Assocamere Estero CRUI per periodi di internship nelle camere di commercio all'estero. Copenaghen-Salerno, questo è il viaggio di rientro a Natale di Marco Valente, giovane espatriato in Svezia che ha scelto di incontrare molti immigrati che come lui aspirano a un cambiamento. Come è andata a finire? Ho fatto 5 tappe diverse, mi sono fermato in diverse città e dovunque ho trovato molti italiani che avevano voglia di fare conversazioni significative su quali sono le cose importanti da cambiare in Italia. Mi sono fermato a Copenaghen, poi a Bruxelles, poi a Parigi, a Grenoble, a Torino. Cosa è emerso in breve da queste discussioni? Tutti si lamentavano del fatto che il sistema è formato in modo in cui soltanto le persone che hanno delle conoscenze vanno avanti e si spera molto in un sistema che sia più meritocratico e che vengano riconosciuti i meriti delle persone con talento. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo. Una direttore delle comunicazioni al World Energy Council, scadenza per i CV 28 gennaio, info su worldenergy.org. Un analista all'OPEC di Vienna, scadenza per i CV 19 gennaio, info su opec.org. E infine un ingegnere dell'automation software allo European Molecular Biology Laboratory di Grenoble, scadenza per CV 31 gennaio, info su embl.org/jobs. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci porta per la prima volta nel sud-est asiatico, destinazione Cambogia. Pensate un po', per raccontarvi un'altra storia di successo. Nome: Matteo. Cognome: Marinelli. Età: 30. Città di origine: Civitanova, Marche. Studi: economia delle amministrazioni pubbliche e istituzioni internazionali. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2002. Per andare dove? Bangladesh. Perché? Volontario con Grameen Bank. Quale lavoro svolge attualmente? Analista finanziario di rischio e investimento. Dove? Phnom Penh, Cambogia. Tornerai? Chi lo sa? No. Musica made in Cambogia per introdurre oggi la storia di Matteo Marinelli, una vicenda davvero straordinaria la sua che vi garantisco vi emozionerà. Matteo ha solo 30 anni ma sulle spalle ha tutta l'esperienza del grande viaggiatore. Partiamo dalla fine come facciamo spesso prendendo spunto da una riflessione che hai inviato a giovanitalenti@radio24.it. Quando vado per lavoro in India e in Cina guardo con ammirazione una punta di rammarico i coetanei che sono tornati nei loro paesi a cercare di fare o creare qualcosa. Stanno avendo un'opportunità ineguagliabile, quella di modellare il proprio destino. Io non ce l'ho mai avuta questa possibilità. Farlo in Italia sarebbe bello, ma forse in un'altra vita. Matteo, chi modella i destini dell'Italia oggi? Un'elite di gerontocrati formatisi sulla logica corporativa e familistica oppure giovani di talento liberi e indipendenti? Tenderei

credo che esista un potenziale per questo, esista un potenziale importante della microfinanza in Italia. Vale la pena ricordare alcune difficoltà, credo. La prima cosa è che la microfinanza fatta in Italia, direi nei paesi sviluppati, è in qualche modo più complicata della microfinanza fatta nei paesi in via di sviluppo, per il semplice motivo che in Italia il target è il 10-15% della popolazione esclusa dal settore finanziario, che è un settore in qualche modo già debole. Nei paesi in via di sviluppo è esattamente l'opposto, il 70-80% delle persone non hanno accesso a servizi finanziari e possono essere oggetto di microfinanza, quindi anche settori economici dinamici. Proprio per questo, soprattutto ad esempio nel caso dei disoccupati, in un paese come l'Italia la microfinanza deve essere affiancata da servizi non finanziari, supporto, appoggio a queste nuove iniziative. Questo ha un costo che in qualche modo deve essere coperto e difficilmente può farlo il tasso di interesse. Tutto questo in qualche modo può anche portare a considerare la microfinanza in parte come, diciamo, un rimedio ai fallimenti del mercato, cioè un modo per servire questo target che altri attori non stanno servendo, ma anche, e questo può essere uno spunto credo interessante, come una sorta di complemento del welfare. In qualche modo la microfinanza può essere una soluzione parziale al problema della disoccupazione con costi minori rispetto ai costi diretti e indiretti della disoccupazione, quindi in questo potrebbe esserci anche una riflessione proprio in termini di policy su come usare questo strumento, ad esempio nel caso della disoccupazione giovanile, in qualche modo. Grazie a Fabio Malanchini, fondatore di Microfinanze. Ora domanda di rito per Matteo Marinelli: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando, tra le varie vie di uscita, a un espatrio? Di lavorare duro, di non mollare mai e di credere nel proprio sogno. Esperienze di studio, di lavoro all'estero sicuramente aiutano e devono essere effettuate. Ovviamente non ci si deve contare più della nostra amata lauretta, ma di avere corsi post laurea, vari master e conoscenza delle lingue, soprattutto dell'essere proattivi, rimboccarsi le maniche. L'umiltà paga sempre, il duro lavoro anche, soprattutto in ambienti meritocratici. E siamo giunti allo spazio dedicato alle associazioni e alle iniziative che si occupano di quella che possiamo definire come la nuova immigrazione. Oggi torniamo a parlare della nuova legge per il rientro dei cervelli under 40, approvata dal Senato. Abbiamo chiesto all'ideatore, il deputato PD Guglielmo Vaccaro, di spiegarcela nel dettaglio. A chi si rivolge? Ai giovani lavoratori italiani che si trovano all'estero, che alla data del 20 gennaio del 2009 hanno maturato 2 anni di esperienza o hanno conseguito un titolo di studio, di laurea o di specializzazione. Nati dopo quale anno? Nati dopo il 1 gennaio 69, che siano stati 2 anni in Italia, 6 cittadini comunitari, o comunque da italiani 2 anni all'estero, e dall'estero aver maturato il requisito di un'esperienza qualificante o di un'abilitazione come un titolo di studio. Ovviamente queste indicazioni saranno poi tipizzate da un decreto del Ministero dell'Economia che entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dovrà essere adottato dal Ministro Tremonti. Quindi è importante specificare non solo lavoratori ma anche studenti. Sicuramente, perché parliamo di persone nate dopo il 1 gennaio 69, potrebbe essere benissimo un 28enne partito nel 2006 che si è specializzato all'estero, o addirittura un 25enne che ha appena conseguito una laurea all'estero, che decide alla luce di questa forte incentivazione di rientrare, di mettere su un'impresa e quindi di creare ricchezza, occupazione e soprattutto di compensare i minori introiti. Spieghiamo esattamente come funziona il beneficio fiscale. Si potrà per 3 anni, nella fase sperimentale della legge, portare a tassazione solo una parte del reddito derivante da un'attività di lavoro autonomo o da un'attività di lavoro dipendente. Qual è questa parte? Il 30% del reddito dei prossimi 3 anni nel caso in cui si tratti di un uomo, il 20% nel caso in cui si tratti di una donna. Se si guadagnano 50.000 euro si porteranno a tassazione 15.000 euro nel caso in cui si tratti di un uomo, 10.000 per una donna. Il risparmio fiscale è sulla parte di reddito non soggetto a tassazione, fino a un massimo, dice la legge, di 200.000 euro di incentivi fiscali. Quale tipo di aiuto potrà offrire la rete consolare? La rete consolare italiana è impegnata per legge ad offrire assistenza gratuita al cittadino rientrante e ai suoi familiari lì dove si trovano in questo momento, quindi il ragazzo o la famiglia che si trova negli Stati Uniti piuttosto che in Inghilterra avvierà un rapporto col consolato e il consolato farà in modo che tutte le autorizzazioni potranno essere consegnate lì dove si trovano attualmente questi nostri connazionali, senza dover appunto affrontare tutta questa ridda di richieste, autorizzazioni, rapporti con la pubblica amministrazione. Per maggiori informazioni, controesodo.it. Con oggi la rubrica Intern Active si trasferisce online. Su Facebook, nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina fan Fuga dei Talenti potrete rispondere alle nostre discussioni settimanali, che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale professionale LinkedIn. E potete pure contribuire al blog aperto all'indirizzo radio24.ilsole24ore.com/blog/nava. Inviate i vostri contributi a giovanitalenti@radio24.it, li pubblicheremo online. Vi ricordiamo infine che all'interno del blog è attiva la piattaforma Matching e che siamo sempre alla ricerca di nuove storie. Se siete under 40 ed espatriati potete candidarvi a giovanitalenti@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto dunque i vostri contributi per email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo, nuovo orario alle 13:30, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.